credeva. Ma il cuore è una radio che va. E se una radio è libera, ma libera veramente. Ascolta la radio. E radio e sessioni contagiano e con libere informazioni. Anni suonati, storia semiseria delle radio libere. Bentrovati a 40 anni suonati, storia semiseria delle radio libere, il programma che vi ricostruisce in ordine sparso i 40 anni delle radio libere indipendenti. A cavallo degli anni 2000, le radio libere furono protagoniste di un lavoro su molti dei servizi che utilizziamo oggi, come lo streaming, ma lo fecero in modo ancor più pionieristico, sviluppando sistemi in software libero. Nuovamente, quindi, la consapevolezza che un'alternativa al pensiero e all'agire dominante esiste passò attraverso la radio. Questa storia ci verrà raccontata oggi da Paolo Patruno, informatico del Free Software Forum, che sarà protagonista anche di un aneddoto divertente. Nella rubrica dedicata al materiale d'archivio, invece, Roberto Raspadori, storico redattore di Radio Città 103, ci farà riascoltare una telefonata strana e piccante, come capitava di ricevere a chi trasmetteva di notte. Infine, la consueta rubrica dedicata alle radio libere che non ci sono più, che oggi è particolarmente importante perché è dedicata a Radio Quartiere, che diventò Oasi Radio e poi Radio Fujiko. Buon ascolto! Bushy blonde hairdo, serving USA. You'll catch him serving at the inside, outside USA. Ventura County line. Siamo in compagnia di Paolo Patruno, che innanzitutto saluto. Ciao Paolo. Salve a tutti. Paolo è un informatico, è stato un po' anche un pioniere di un certo cambiamento tecnologico, almeno all'interno delle radio libere, per quanto riguarda ovviamente all'epoca Radio Città 103. Tutto comincia a cavallo del nuovo millennio, giusto? Sì, comincia intanto un cambiamento tecnologico che ha coinvolto, credo, tutte le radio, in quanto il digitale ha iniziato a entrare in maniera corposa nell'utilizzo di quasi tutte le emittenti. In quegli anni, a fine anni 90, inizio diciamo 2001 in particolare, è nato un'associazione, un gruppo a Bologna, si chiama Bologna Free Software Forum, che ha iniziato a lavorare sulle tecnologie affiaccandosi a quello che al tempo erano appunto i social forum, i movimenti politici di quell'epoca, nati prima e durante Genova 2001. Questo gruppo ha iniziato a collaborare con una serie di soggetti che facevano informazione a Bologna, tra cui la radio, spiccava indubbiamente, e si è creata una interessante collaborazione. Il panorama del software libero dentro cui noi ci muoviamo, quindi questo concetto di libertà, di condivisione dei saperi, ha poi varie sfaccettature. Andiamo da associazioni che sono politicamente, diciamo, agnostiche, a noi che invece avevamo una connotazione politica ben chiara, a chi poi aveva anche condotte differenti dalla nostra, quali l'anonimato e via dicendo. Tu raccontavi poco fa l'innovazione riguardato un po' tutto il sistema radiotelevisivo, però voi avete deciso di farlo in un modo preciso che rispondeva anche a una logica e a una filosofia precisa. Sì, la logica, che è il modo con cui fai le cose, citando anche frasi famose di Gandhi, è anche parte dello scopo a cui vuoi arrivare. Quindi, se vogliamo avere un concetto di informazione libera, dobbiamo farlo con tecnologie libere. Questo è un po' il succo del discorso, dobbiamo conoscerle, padroneggiarle, quindi da lì è nato questo affiancamento a chi faceva informazione, faceva attività politica. Abbiamo fatto nascere una serie di servizi, quindi un servizio che è nato a quel tempo è, ad esempio, è Comodino, che è un servizio di hosting, cioè un server che dà servizi a associazioni e gruppi, quali appunto l'hosting, cioè ospita i siti di una serie di associazioni, mailing list, quindi è uno strumento che, benché vecchio, è ancora molto utilizzato per la comunicazione e l'organizzazione. Ricordiamo che Facebook e altri social sono nati poi successivamente. Ecco, l'abbiamo fatto tutto con tecnologie libere, Linux, ma non solo, ovviamente, tutto un insieme di programmi, di software aperti. C'è stato proprio, come dire, anche una sorta di esperimento, perché non l'avevate fatto prima. Alcune tecnologie erano abbastanza nuove, tipo lo streaming, che noi facciamo da appunto 15 anni, che è lo streaming con cui potete ascoltare la radio, la nostra radio. A quel tempo era abbastanza sperimentale e noi abbiamo iniziato sin da subito anche a farlo con formati liberi, che è questo formato Vorbis contenitore OGG, che è un formato libero e aperto, quando in realtà a quel tempo era molto più facile appoggiarsi a altre tecnologie e anche altri servizi che erano a quel tempo l'internet gratis, che era molto facile avere ed utilizzare, ma che poneva dei vincoli molto grossi. Il più evidente era la pubblicità, gli inserimenti continui all'interno dello streaming e altre forme poi di vincolo, che poi portavano vincoli anche economici, poi successivamente, oltre ai vincoli dei contenuti, a censura su alcuni contenuti. Tanto per dare un senso, c'era un progetto da cui partivo che si chiamava Tessocra, cioè telematica sociale critica e accessibile. Questo era un po' il contenitore con cui si partiva, col software libero nato appunto diffuso negli anni 90. Poi nel lavoro quotidiano di una radio, nel lavoro di informazione, per garantire un palinsesto, si è a volte confrontati col fatto che alcuni software, tipo quelli di automazione, all'epoca esistevano solo in formato proprietario e quindi sono stati sviluppati anche tu personalmente. Hai sviluppato un software in questo senso? Sì, abbiamo iniziato a lavorare in concreto di fianco alla radio. Diciamo che a quel tempo l'uso che aveva la radio dell'informatica e dei computer era estremamente limitato. Ecco, quindi abbiamo iniziato a lavorare riciclando computer, con un'economia molto anche ristretta, limitata. Quindi abbiamo iniziato a montare computer che potessero fare montaggi audio e che potessero anche fare lo streaming. Come dicevi, c'era anche questo problema dell'automazione dell'emissione radiofonica, che prima del digitale veniva fatto tramite nastri, tramite altri tipi di supporti, piccoli sistemi di automazione tra l'elettronico e il meccanico, diciamo così. E quindi il computer dava questa possibilità invece di poter programmare trasmissioni registrate con una flessibilità molto maggiore. E i software che c'erano erano a volte molto scadenti, a volte molto costosi e tutti proprietari. Quindi alla fine, dopo anni di ricerca e tentativi di utilizzare altri tipi di prodotti, ci si è messi a sviluppare. In particolare, appunto, ho sviluppato questo autoradio, questo programma di automazione per l'emissione radiofonica, che è in utilizzo dalla radio da parecchi anni. Questo è tutto sviluppato con software libero. Il messaggio alla fine che questo percorso ha portato è che in un mondo dominato dal copyright, dalla chiusura dei saperi, in realtà è possibile fare radio, fare informazione, fare musica in un modo diverso. Sì, allora questa radio, Radio Città Fujiko, è stata sicuramente tra le prime a essere completamente basata su questo tipo di infrastrutture di software libero. All'inizio avevamo difficoltà tecniche e anche difficoltà nel far capire che cosa stavamo facendo. I tempi si sono evoluti, Linux e tutti i software annessi sono diventati probabilmente di più facile utilizzo, sono più conosciuti. Le cose poi sono cambiate, nel senso che abbiamo appunto adesso l'importante è il tema dei social, importante la parte del web, bisogna spostare l'attenzione a altri tipi di tecnologie e non solamente al sistema operativo, ai programmi di montaggio che vengono utilizzati, via dicendo. Bisogna continuare a essere, diciamo, in movimento, quindi alcune cose probabilmente dovremmo chiudere e aprire altre attività. Mi sembra che sia stata un'esperienza interessante, anche precoce, cioè in anticipo su alcuni tempi, e quindi per quello particolarmente secondo me significativi, perché non si segue l'onda ma si fanno delle scelte in anticipo. like it more and more. Take it as it comes. Specialize in having fun. Take it easy, baby. Take it. L'aneddoto. L'altra curiosità che posso dire è che nello sviluppo di Autoradio, che è software di automazione per la messa in onda, nelle fasi di sviluppo io abitavo in provincia di Reggio Emilia, a quel tempo dovevo mettere a test tutta una serie di funzionalità, tra cui appunto i jingle, le pubblicità, e quindi mi sono trovato per qualche mese a inventarmi delle pubblicità che pubblicizzavano la mia pizza fatta in casa, tutta una serie di cose molto casalinghe, molto autoreferenziali, diciamo così, i jingle pure, e mi esaltavano chi conoscevo, i miei amici, via dicendo, e mi sono dovuto testare una messa in onda per qualche mese ascoltandomi la mia musica con i miei jingles e la mia pubblicità per vedere se tutto funzionava regolarmente, e qualcuno che capitava in casa mi pigliava un po' per un soggetto un po' pazzo. Mi ha guadagnato la tua autostima? Ma non lo so, perché dopo un po', diciamo che al secondo mese di jingle in cui mi sentivo e mi esaltavo, mi iniziavo anche un po' a odiare, dico. Dall'archivio. È un esempio delle notturne che facevo insieme all'amico Francesco, storico gestore di un locale che negli anni 80-90 era famoso in un certo ambito, diciamo così, della gioventù bolognese. Era il Corova di San Lazzaro. Trasmettevamo insieme e alla notte capitava in estate di trovarci insomma verso mezzanotte e poi cominciare a trasmettere. Capitava che personaggi strani telefonassero in radio, insomma. Questa è una trasmissione che si chiamava Tanti Baci Perugina e che così alternava musica, bella musica naturalmente, con anche racconti, nella fattispecie racconti erotici, e questo probabilmente ha solleticato la morbosità di qualcuno, come sentiremo in questa registrazione, questo estratto di registrazione, che appunto di questa trasmissione che andò in onda il 7 luglio del 1989. Cos'è, mi hai passato in diretta? Mi hai passato in diretta? Sì, perché così facciamo sentire un po' anche le telefonate strane che ci arrivano in radio. Ma dai, non è poi tanto strano, è normale. È normale la tua telefonata, infatti, solo che appunto è un contatto strano, capito? Così facciamo sentire un po' anche agli altri ascoltatori che ci si può mettere in contatto tranquillamente per far due chiacchiere. Oh, e poi hai anche una bella voce, sai? Ah, ecco, vedi che torniamo un po' sulla telefonata strana, però. Vabbè. No, ma io dico la verità, sono sincera. Bene, mi fa piacere. Tu leggi i giornali? Mi fai un'intervista allora, questa diventa una trasmissione un po'... Io sto leggendo un giornalino. Io i giornali li leggo, sì, i giornalini anche, tutto. Sai, come passatempo vanno bene, no? Leggere i giornalini? Sì. Come ti chiami? Tu come ti chiami? Io mi chiamo Daniela, perché? Non so, mi hai chiesto come mi chiamavo io, mi è venuto spontaneo di chiedere come ti chiamavi tu. E quanti anni hai? Tantissimi. Più di 30? Molti di più. Vabbè, domani dormite fino al pomeriggio? Noi domani dormiamo fino a tardi sicuramente. Ho capito, allora anch'io. Quindi siamo uguali. Perfetto. Allora, ma non vai al mare? Io al mare? No, io faccio le lampade, quindi. Perfetto. Ascolta. Fai le lampade? Sì, cioè adesso però una settimana più che non le faccio, però se ricomincio a farle dopo sono più chic, cioè, fai, dai lo shock. Sai, le ragazze abbronzate sono le più belle, no? Ma tu come ti consideri chic? No, io non mi considero bella perché ho anche un po' di scogliosi, quindi... Ai, come? Sai, dovrei comprarmi reggispalle, quindi... Ma guarda che adesso ci sono dei busti in vendita eccezionali, eh? No, io il busto l'ho portato 2 anni, ti dirò, non mi ha fatto nulla, l'ho buttato nel rusco, quindi... Ma ti avranno consigliato male. Ascolta, provare... mi dici il nome del cantante. Allora, va bene. È Marvin? Allora, si scrive... Marvin? Come Marvin? Marvin, sì. E il cognome è G-A-Y? Allora, G... G come Giacobbe. Sì, questo l'ho già scritto. L'ho già scritto. Y come si scrive? Insomma, ci fa una linea obliqua. Ho capito, una I lunga. Una specie. Sì, fai. Col quella... puntino in testa. No, no, quella, senza quella, la J. Quella è la J. Y è una lettera greca. Allora senza il capello, già capito, senza il capello. Ascolta. È una E finale. Una E finale. Gaie. Sì, dopo la Y. Ho capito, no, è perché non so l'inglese, so solo l'italiano per anch'io. Quello. Ma che studi hai fatto? E fino alla quinta elementare, cioè, un momento, io ho la licenza elementare, però non ho quella delle medie. Vabbè, insomma, ma cosa fai nella vita? Niente. Proprio così, te la spassi? Così. Ma... Cioè, ti diverti a telefonare alle radio di notte? Per esempio. Quello lì era un hobby che avevo tempo fa. Adesso sì? Non ce l'ho più. Stasera è un caso perché ero ancora sveglia. Ma dimmi una cosa, è da molto ma tutto qui, Marvin Gaye. Sì. Gaye. Marvin Gaye. Fai finta. Si legge Gaye. Si dice gay. Gay. Gay, proprio gay. Allora. Ma ha fatto una brutta fine, tutto sai? Qui? Quel gay lì. Tutto qui? Cosa? Il titolo. No, quello era il nome del cantante. Il titolo della canzone invece è Sexual Healing, che è una cosa un po' più lunga da scrivere. Ho capito, allora mi detti? Tutto sexual healing. Allora, sexual non dovrebbe essere difficile da scrivere. Oddio, sex con la X. Sì, e poi? Ual, sexual. Ho capito. Healing è scritto con la H davanti e poi un dittongo con la E-A. allora, troppo difficile. Aspetta un attimo, visto che ormai la trasmissione la stiamo conducendo in tre, magari propongo a te anche, se ti va, facciamo sentire un po' di musica magari a casa e poi riprendiamo la telefonata. Stavamo finendo il titolo però. Va bene, ha ragione, non si può lasciare il titolo a metà così. Appunto, ma chi è quello lì? Ma è Francesco, ma scusa. Allora, ma... Sexualiling. H-E-L l'ho già scritto. H-E dovevi scrivere invece. H-L? H-E. Ah, ho capito, poi? A-ling. Ling. Ling, proprio con la lingua che ti sbatte sulle labbra. Ho già capito, ma come siete poeti. Davvero, eh? Siete stupendi. Ma ascolta, non potete mettere un brano un po' da discoteca? Da discoteca tipo diverso, cioè, capito? Ti mettiamo su un pezzo di Talking Heads bellissimo. Una cosa sensuale, romantica, non l'avete? Allora da discoteca o romantica, deciditi. Beh, la stessa cosa, cioè, capito, ce ne sono tante. Allora, una discoteca romantica. Una discoteca romantica. Ti mettiamo una rotonda sul mare. No, quello non lo so, adesso magari se ci dà il tempo di cercare mettiamo qualcosa. Però se no non possiamo. Sì, perché a un certo punto la trasmissione deve continuare. Beh, siete in due, uno cerca, quell'altro parla. Non possiamo, purtroppo siamo quasi due gemelli siamesi. Il direttore non vuole. Ci muoviamo in coppia. Magari ci sentiamo più avanti. Più avanti, domani sera. Non ci siamo domani sera però. Sì. Allora prima mi hai mentito. No, si era dimenticato, aveva un appuntamento con me. Non è che te l'ha mentito. Si era dimenticato di un impegno che aveva preso precedentemente con me. Con te? Sì. Ho capito. No, non essere maliziosa nella tua voce, cara Daniela. Ah, ho capito. Allora, cioè, non ho capito. Ma tu da dove telefoni? Da Bologna. Da Bologna dove? È centro. Centro che via? No, per sapere se si sentiva bene alla radio. Però sente benissimo, sei pronta di riflessi, brava, no, mi fa piacere perché sei sveglia nonostante l'orario. No, hai avuto un'ottima prontezza di riflessi. Guarda che se sono sveglia perché non ho dormito, sai, perché se avessi dormito ero più addormentata. C'era una volta. Radio Quartiere. Nel settembre del 1976, un gruppo di ragazzi del quartiere San Donato chiede alla Casa del Popolo di ospitare un'esperienza di radio privata. Il Circolo Arci Leopardi decide di partecipare all'iniziativa ed elabora un progetto che porterà alle prime trasmissioni nel gennaio del 1977. Nasce così Radio Quartiere. I locali sono ricavati nei sotterranei della Casa del Popolo. Sul tetto dello stesso edificio, invece, la prima antenna alimentata da un amplificatore da 20 watt che trasmette alla frequenza di 104.8 MHz. Nel corso degli anni la proprietà rimane la stessa, ma l'emittente viene ribattezzata Oasi Radio all'inizio degli anni 90, periodo in cui si colloca il suo più recente e impegnato rilancio. In mezzo, per un breve periodo, l'emittente assume il nome di Radio Studio Equipe. Una caratteristica fondamentale della radio, dalla sua nascita ad oggi, sta nel volontariato. DJ, speaker, giornalisti, attivisti, tecnici e collaboratori vari prestano volontariamente la loro opera senza percepire alcuna forma di remunerazione o rimborso ogni giorno 24 ore su 24. Gli stessi proventi della pubblicità sono integralmente destinati alla parziale copertura delle spese di gestione. Questo perché la radio è stata pensata e progettata come radio comunitaria, non finalizzata, cioè, a scopi di lucro. Il 1994 è stato importante per Oasi Radio ed è di quell'anno infatti il raggiungimento di una convenzione con l'Arci Nuova Associazione che, oltre a sostenere assieme ad Arci Nuova Bologna una parte dei costi gestionali della radio, ne ha assunto la responsabilità editoriale. Per questo motivo Oasi Radio poté definirsi la radio comunitaria dell'Arci Bolognese. Negli anni successivi la radio venderà tutte le frequenze eccetto i 94.7 MHz di San Luca. Nel 2000 l'emittente cambierà nome in Radio Fujiko, guidata da Mingo DJ. Il marchio accattivante e il taglio pensato per un target giovanile, specialmente universitario, farà crescere velocemente la notorietà dell'emittente in città. Tutto però si infrange nel 2004, quando l'Arci vende la frequenza a Radio Città del Capo. I ragazzi di Radio Fujiko rimangono senza una frequenza con cui trasmettere e si rivolgono agli amici di Radio Città 103. Il resto della storia lo sapete. Radio Fujiko, per chi non ha le orecchie a mandorla. Tick tick tick tick tick tick tick tick tock.